D'Agostino e dovrei fare un annuncino. Questo fine settimana, e cioè sabato e domenica, 1 e 2 aprile, io suonerò la mia musica in Sardegna. Discoteca Cube, Viale Marconi 11, località Cagliari. Da Luna alla discoteca Biggest, strada statale 293, località San Massi, provincia di Cagliari. Preciso. Domenica 2 aprile 2006, ore 21. Ecco. Alla discoteca Blue Star, in via Tisi, località Ossi, provincia di Sassari. Sassari. Che belle. Festa delle scuole. Discoteca Privilege. Privilege. Via Torino 80. Località Airasca. Provincia di Torino. Discoteca Privilege. Airasca. Torino. Serio. In sveglio. Oh.

Suoni e ritmi del catenato, qualche suono al trattato. Il programma col cuore di un bambino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Questa non è teoria, è un sogno che porta via. Ascoltando, fratello. Hold on, Love Transistor. Violento.

your new jack. The styles of the Browns kind of wild. Now I'm back, but don't get me wrong, cause I was never gone. It was here all along. You see my flavor stand strong and get you to anchors with you. Ted, do they know where I'm coming from? Hey yo, Ted, do they know where I'm coming from? Hey yo, Ted, do they know where I'm coming from? Yes, groovy, the new type of styling. Wild and loose with the dark of the berry and sweet juice. And when I brush you, only two words is hurting me, hurting me. Just better stand still, I'm moving back will. Then I make my kill, snatch and tax your brain. Goddamn, I'm insane. But I refrain from using a name, cause two can play that game. Sul cammino di Gigi D'Agostino. Poi anche nella classifica che puoi ascoltare il sabato su M2O, però alle 18. Tra l'altro da oggi puoi ascoltare anche il preview, cioè puoi sentire un pezzettino del brano in questione, nel caso tu non conoscessi, hai capito? Poi c'è.